L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Secondo i dati dell'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, dal 2009 gli acquisti online in Italia hanno visto una crescita a doppia cifra, superando nel 2015 quota 16,6 miliardi. In 4 anni il numero di acquirenti è passato da 9 a oltre 17,7 milioni, anche se sono ancora lontani i livelli del resto d'Europa e di altri mercati occidentali. Ma come avvengono gli acquisti? Lo smartphone è la modalità che ha visto una crescita più incisiva. Nel solo mese di aprile, ben 8,6 milioni di italiani hanno scelto questo device per fare spese online, preferendo abbigliamento e accessori, seguiti da prodotti elettronici e libri. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Il commercio elettronico ha ormai preso piede anche in Italia, grazie a PC, ma anche a sistemi mobile come tablet o smartphone. Come avete ascoltato dalla scheda iniziale, ognuno di noi ha a disposizione un mercato mondiale di prodotti e servizi. Ma quali sono le prospettive di questo mondo e come sarà gestita, soprattutto in futuro, la complessa logistica creata dalle consegne porta a porta? Lo chiediamo ai nostri ospiti. Vi presento il primo, Stefano Perego, Global Operation Manager di Amazon. Come sta affrontando il suo gruppo il tema della logistica e della distribuzione? Devo dire che la globalizzazione della catena distributiva portata al commercio elettronico ci offre degli spunti importanti in termini di capacità di raggiungere il cliente ovunque sia e con modalità differenti. Quindi la nostra interfaccia col cliente, come citato, è sia lo smartphone, ma in futuro sempre di più vedremo l'evoluzione di nuovi metodi come la capacità di inserire un ordine attraverso la voce o semplicemente schiacciando un tasto su un'apparecchiatura o un dispositivo a casa. Questo in termini di punto di entrata. Ecco, per quanto riguarda il rapporto dell'utente con le infrastrutture, il tema però della distribuzione porta a porta e quindi di tutta la logistica complessa collegata a questa frammentazione delle consegne è un tema assolutamente centrale che voi state affrontando con molta attenzione. Certo, essenzialmente i presupposti per farlo bene sono da un lato la capacità dei sistemi software e tecnologici di interconnettere le differenti fasi di questo processo, dall'altro è importantissima la fase di trasporto che deve essere adeguata a questo nuovo modo di comprare essenzialmente, perché fino a qualche anno fa le nostre reti di trasporto e i nostri trasportatori non erano abituati a gestire questi volumi che hanno dei picchi improvvisi e soprattutto che hanno delle caratteristiche, delle connotazioni diverse, essendo focalizzati su pacchi e pacchettini di, certo, molta, di piccola dimensione che si muovono molto rapidamente. Certo, e a proposito di trasporto, in Italia esiste un'associazione di categoria che raggruppa i corrieri, cioè i soggetti che sono in qualche modo più direttamente interessati a questo tipo di consegne, l'associazione La Fedit. Di recente è stata anche audita in Parlamento, quindi ha spiegato ai nostri parlamentari quali sono le problematiche legate al commercio elettronico in Italia, e noi ne parliamo in compagnia di Guglielmo Nardocci di Fedit. Nardocci, voi raggruppate tutti i principali corrieri mondiali, ovviamente operanti in Italia. Come si stanno organizzando questi corrieri per far fronte alle problematiche, appunto, di cui parlavamo prima, legate a questo aumento di flusso, soprattutto di consegne dirette al consumatore? Ma guarda, Perego ha posto l'accento sulle due cose fondamentali. Uno è i picchi improvvisi di lavoro legati sostanzialmente ai periodi festivi, eccetera. Lì il problema è stato affrontato globalmente, devo dire anche con grande sensibilità da parte dei sindacati, con l'accordo sulle ribalte, cioè si stabilisce che stipendio garantito, in certi momenti si lavora di meno, si sta a casa, però quando c'è bisogno si lavora giorno e notte, che è una tendenza che si sta, diciamo, legata alla flessibilità, eccetera, che si sta sempre più affermando. Per quello che riguarda i pacchi piccoli, quello è un problema che abbiamo affrontato e stiamo ancora affrontando da un altro punto di vista, cioè cercando in Italia l'accordo con le amministrazioni comunali. Tu sai benissimo che in questo paese ogni città ha il suo sistema di entrata e di consegna dell'ultimo miglio, che è estremamente difficoltoso e legato a una serie di piccole imposte, grandi imposte, obblighi, orari, eccetera. Abbiamo sperimentato con successo, devo dire, con la città di Torino, un sistema che per adesso sta funzionando, legato alla premialità, cioè gli operatori entrano e escono nelle città in qualsiasi ora del giorno e della notte. A patto che abbiano dei veicoli ecologici e quindi sostenibili. Prego, ritorniamo invece al mercato europeo. Dicevamo prima, ci sono delle difficoltà legate alle consegne, ovviamente non tutti i paesi sono pronti. Dal suo osservatorio, come dire, internazionale, riesce a cogliere quali sono le differenze in questo momento in Europa, quali sono i paesi preparati e quelli un po' meno? Ma devo dire che il problema, come dicevamo prima, è abbastanza generalizzato, cioè la velocità con cui evolve il commercio elettronico è superiore alla velocità con cui il settore del trasporto può evolvere, perché alla fine noi abbiamo a che fare con un cambio di infrastruttura, un cambio legislativo, molti più vincoli. Il mondo fisico è decisamente più difficile, se vogliamo, a valle della fase di immagazzinamento. In Europa ci sono punti di partenza diversi, perché i paesi hanno punti di partenza diversi in termini di trasporto e anche facilità, gradi di difficoltà differenti, cioè l'Italia è decisamente più complessa che la Francia da un punto di vista distributivo. Quindi esiste un fattore paese, ma non è necessariamente una buona ragione per perdere questa opportunità, perché di fatto l'elemento più apparente dal mio punto di vista è che la logistica nella sua interezza beneficia di questa nuova modalità di commercio, perché comunque serve un veicolo per far arrivare il prodotto da un magazzino all'utente finale, e servirà sempre di più. Ed è questo il motivo che vi ha spinto a ritornare ad una sorta di logistica interna, quindi in qualche modo fermando un processo che era quello della esternalizzazione, della terziarizzazione della logistica, che ormai era diffuso in tutto il mondo? La realtà è che noi comunque cooperiamo e lavoriamo in tutti i paesi con dei trasportatori che hanno una storia, un'esperienza importante. Il problema è che in alcuni paesi abbiamo riscontrato una, se vogliamo, difficoltà da parte di alcuni operatori a fare un investimento per seguire la nostra crescita. Cioè, quando dicevamo che oggi la logistica si muove molto più su pacchi e pacchettini a seguito del commercio elettronico, questo per un operatore logistico del trasporto è un grosso cambiamento. Quando io ho iniziato 20 anni fa, i prodotti si muovevano prevalentemente su pallet o su scatole di media grossa dimensione e peso, e oggi siamo un po' tra quello che fa le poste e quello che fanno i corrieri, un mestiere che è un po' diverso rispetto a quello che si faceva prima. Prima era tutto business to business, il traffico. Oggi, con questi pacchi e pacchettini che vanno capillarmente a migliaia di consumatori e sono di piccole dimensioni, il gioco cambia un po'. Certo, e sarà un'evoluzione che ovviamente analizzeremo e seguiremo nel corso del tempo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.